Luca, ma Fusara ne ha stazione Saldanzi? No, non credo. Dai mail a Taline, invece ce ne sono tante. Se vuoi te la controllo io. Controllamela a vedere. Dipende da quanto vuoi spendere. Io non li so i prezzi, no. Poi ho avuto una comprata da Fusara e invece era crepata. Purtroppo anche io ho la IFIUA, la 952D, so che non mi funziona più il saldatore. Sarà bruciata la resistenza. No, mi dà errore, scalda il saldatore, ma non arriva la temperatura che serve a me, scalda. È all'interno proprio, già avevo cambiato due resistenze qualche anno fa, si è ripresa su di nuovo, ma le resistenze non hanno niente. Non so cosa è successo. Avanti, buongiorno, ciao Nico. Io me ne devo alzare sempre presto perché devo andare a portare il cagnolino a fare i suoi bisogni. Io ero in ascolto, ho sentito a Luca e sono entrato a salutarlo, capito? Allora buona passeggiata, Nico. Che okay, ciao Nico. Gaba gaba. Vabbè, adesso do un'occhiata. Gaba gaba. Ma che ragazza? Ma là ce n'è una Natalina, tipo la mia, quella è diversa. Stazione saldante, micro saldatura, saldatore, rapido stagno, aria calda, 5 punte, 90M, con 3 ugelli, 77,95. Portate lo ti viene, da. Spedizione gratuita. Se no ce n'è un'altra, 64. Sempre stazione saldante, di saldante, aria calda, ugelli, di stagno, saldatura, flussante 90M, 900M. Non lo so, dipende dalle tue tasche. Ce n'è una da 80 e una da 66 spedita. Che va. Tutto dipende dalle tue tasche. Che bello. Poi salgono 178, mi interessa già una station seria, là. Io me la dovevo ricomprare, solo che mi sono ricomprato il saldatore. Quindi uso il saldatore, adesso ne ho due, questa che non si bruciano i vissi. Non me le compro, capito, cabal. Sì, io pure ce l'ho il saldatore uno. Allora, passo a questo. Oh yeah, che mega. Ora, 1, 2, 3, 4. quindi no, sto baracchino con questo microfono, stavo provando. Mi senti bene? Sì. È un MB5 con un Tolmar 7000 di quelli basi vecchi, però vedo che va bene, eh. Stavo facendo delle prove, adesso ho due linearetti, un 747 e un B150. Stavo cercando di capire qual è praticamente quello che va meglio. No, un 747 è una settantina di watt, però io lo piloto molto basso, capito, con 3 watt e mezzo, 4 watt. Quindi da una cinquantina. Il B150 con 4 watt ne da 70, 75. Oh, vai da 6 a 7, Vanni, ciao Angeli, c'è Vanni, non lo so, forse non lo senti. Ma da 7, 6, 7 a quasi 8, 9, va dai. Picchi di modulazione. Guarda il mio invece, Vanni, così è con l'amplificatore. Adesso te lo stacco e mi dici quanto scende. Guarda il segnale così. Come, intorno a 5 con il lineare attaccato. E così allora non mi intendi bannuda. Ho capito. Aspetta che chiedo ad Alghero. Angeli, così sono praticamente liscio. Quanto è il segnale? Ho preciso, me lo devi dare, perché devo sapere se tenere uno o l'altro, capito? Tenere uno o l'altro. Allora, questo è liscio, normale. Guarda a vedere, senza i picchi di modulazione. Quanto è il segnale? Adesso è attaccato. Guarda, senza i picchi di modulazione. Adesso è collegato. Quanto è? Quindi da 8 vado a 9 con picchi positivi. Ho capito, va bene. Sì, Vanni, sono tutte e due uguali, dai, più o meno danno la stessa potenza, non che cambia niente. Sì, è quello piccolino grigio, che c'è finali a MOSFET della... non so che cacchio la fa. Mentre l'altro, il B150 della ZG, però vanno bene tutte e due, già viaggiano tutte e due, non c'è problema. Ecco, il 747 lo fa la Midland, mi stava dicendo Angelino. No, vanno bene, Vanni, e costa una cinquantina di euro. Linearetto per attaccare a quei baracchini che danno 3-4 watt, ti aiuta e non distorce la modulazione, va bene, capito? Sì, vanno bene. No, vabbè, io lineare HF, no, non mi interessa, già ce l'ho. C'ho la RM Italy. Non c'è problema, era giusto per fare andare questo coso, dai, qua. Questo, come cacchio si chiama? Questi baracchini, dai, che c'ho, giusto per aiutarli un pochino, ma se serve, altrimenti già vanno bene, perché sia uno che l'altro, uno da 12 watt, questo ne da 6-7, il DAC ne da 10 lo stesso, quindi no, non c'è problema, era giusto per fare una prova. Va bene, la radio mi ha detto che è buona, quindi no, non c'è problema. Sì, alla grande, Vanni, alla grande. Sì, ma ci sono 747 a 40 euro, 50 euro, già li trovi usati. Funzionano bene. Io c'ho anche un B300, un B300P che dà intorno ai 160-170 watt. Devo mettere i fusibili e controllare il relè, perché non mi ritorna indietro il relè, ma deve essere una fesseria perché è da tanto tempo fermo, quindi sicuramente ci vuole un po' di spray per contatti, però funziona molto bene, nuovo, capito? E già ne ho, c'ho ancora quel micro 7 che mi hai dato tu per le VHF, già ne ho linearetti piccoli, c'ho grandi e piccoli lineari, ma intanto non ne fai niente, Vanni, capito? Allora io... sono staccato, avanti Angelino. Beh, Claudio Luca, che è passo Angelino, buongiorno, Santiago 1, Santiago 1. Ma mi diverto, c'è, cioè, maledetto, cazzo. Sì, sì, radio basso, Angeli, fa qualcosa, sento basso basso oggi. No, vabbè, a me sì, no, Santiago 9 stai arrivando. Sì, sì, sì. Datemi un secondo, arrivo subito. Che bello. Aspetta un attimino, 2 secondi, sta ascoltando un audio. Eccomi qua, sono arrivato. Ehi, già ti senti Luca, non c'è problema. Invece così come Angeli con l'altro, questo è il 747, come va? Uguale all'altro, no? Anche da te Vanni, è sempre uguale, non cambia niente, vero? Vannino! Bravo Angelino! Angelo! E ho detto è uguale, no, segnale è sempre uguale, non cambia assolutamente niente. Aspetta, aspetta, lui che è sempre uguale. Che cazzo, io andate da 7 a 9. Allora non è uguale, no. Vabbè, adesso sì, poco fa non avevi agganciato, allora adesso va bene. Lascialo così Vanni, va benissimo, cazzo. Lascialo così, ottimo, arrivi bene. E ti credo, grazie, allora arriva bene adesso. Sì. Bella apparecchiatura, eh. Ma stai usando quello grande? Sì, vabbè, ma che cazzo è dalla timbre che ha venuto la chiave? È tutta la fragosa. È tutta la fragosa, sì. Ma ti ho preso che stai giocando con i baracchini? Io vabbè ce li ho questi e va bene, ma tu usa quello. Cosa stai a tira e molla, capito? Già se sta tutto così, va bene. Ti conviene usarli, perché se non li usi poi è un casino, capito? Avanti Lucarie, lo senti Angelino adesso, sì? No Angeli, sì, lo sentivo prima, dai, stavo ascoltando un audio per quanto riguarda un lavoro. Avanti Angeli! Ehi, anche ogni ho 7, prima non arrivava 1, 2, adesso è 7, buh. Forse il tempo, il vento, cosa ne so, buh. Avanti, buongiorno! Anche Roberto, buongiorno anche a te, dai Luca da questa parte, avanti cari, un secondo, ciao Roberto, avanti Angeli, riprende. Ehi, ehi, qua sono indeciso, sono indeciso per quella radio l'H. Sono indeciso. Perché devi essere indeciso? Devi essere deciso, prendo quella e boh. Marco, sentito che ha detto anche che se vuoi te la da provare, vedi un po'. Gira gira, mi sa. Sì, perché la volevo adattare al, diciamo, quello la uso per fare radio, è qua. La uso qua, questi qua, boh, vediamo, questo mi sa che lo faccio in soldi. Questo ormai a qualcuno per modificarselo. Però voglio, gli voglio agganciare la MB più 4. Cioè, poi sentire voi, il vostro parere, come esce. Oh, su. Sono lì, cioè, soldi ci sono, io lo fa 2 click, bastano 2 click ed è acquistata. Ho capito, Gaia. Se sei deciso, io avrei preso quella lì. Te la fai prestare da Marco per provare, così ti togli tutti i dubbi e vedi un po'. Sono convintissimo, io l'ho avuta tipo quella. Con l'MB più 5 una canonata, va molto bene lui. Boh, vediamo, allora. Tanto già quei soldi che ormai ho messo la carta, dai, volendo li posso anche recuperare. Vado al banco, ma te me li riprendo. Comunque già me li sto recuperando, dai, facendo dei lavoretti. Oggi ho consegnato un tablet, adesso mi devo portare un altro tablet e un computer a mezzogiorno e mi recupero i soldi da lì, dai. Io ti posso consigliare solo bene, male no, per me quella radio che sufficiente per te, alla grande. Sì, perché è già configurata, poi vorranno fare delle regolazioni, non lo so quello, per aprire un po' la LC. No, Marco la conosce molto bene quella radio, ho capito. La conosce bene Tino, la conosce bene Fabrizio, e la conosco un sacco di io, non so manco come è fatta dentro, quindi non ti posso dire com'è. Però sembra che vada molto bene, quindi. Tutta non è come quella che ho normale, a condensatori, capito? Tutta cosa a SMD. Il problema è quello, che se ti si faccia l'SMD non è che ce l'hanno tutta l'attrezzatura per ripararle, capito? Beh, c'è di quelli stracovanato, è facile a farlo, capito? Tu devi decidere tu, io non ti posso dire prendi quello e poi ti ho consigliato male, io mi avrei fatto prestare quella da Marco e poi l'avrei provata, se mi piace mi compro quella, se no c'è un buon radio, non è che... Lo so, infatti, adesso Marco io dico siamo alla pressa. Poi alla tarina facevano le connessioni, la vorrei provare, non so se la quella di Marco è già aperta di modulazione, la vorrei solo provare. Già aperta quella di Marco, l'ha già aperta lui. Va bene, dai, questa parlava una radio nuova, l'ha capito, che non sia cagata. Nuova, cioè, nuova con graffi. No, la radio voglio una nuova, se vedi questa è... chi va 40 anni è nuova, se uno le cose le usa bene stai pur certo che va bene, altrimenti io roba la Bucaccione non ne compro pareggio, non ne compro, io guarda c'ho un 756 comprato da Vannino, è come il giorno che me l'ha fatto, uguale, preciso, identico, non ha un graffio, non ha nulla, quanti anni fa me l'hai dato il 756 Vanni? E forse era la prima radio che avevi, perché mi hai dato quella e ti hai preso il Mark 5, quindi quanti anni avrei il Mark 5? No, la prima radio era un'altra, quindi non me lo ricordo, era la 6-7 anni. Sì, buono 6-7 anni. Buono 6-7 anni, ed è nuova come il giorno che me l'hai data. La matessa cosa, tenuta bene. Non l'ha mai graffiata, bella in ordine, capito? E così si tengono le radio, si tengono così. E il 780 è la stessa cosa, io ne ho anche il 780 tuo. Quindi il 780 è la stessa cosa, sempre bello, funzionante, ottimo, in ottimo stato, mai un graffio, mai un problema, mai niente. Avanti Angelino, cambio. Ciao Robè di nuovo, c'è un vento, all'Ibeccio, al Ghero lo stesso, no, vento c'è, figurati io, lo prendo in pieno all'Ibeccio, è quello che temo di più, non temo il maestrale, grecare, levante, niente, l'Ibeccio è quello che mi ha disintegrato l'antenna. È un vento di merda così forte, quello prendo in pieno proprio da Alghero, guarda, infatti ho più tiranti all'Ibeccio che a Maestrale. Maestrale non lo temo per niente, ma l'Ibeccio quando è forte, minchia, allucinante, sono lo scirocco mi. Ui ui ui. Ehi, lo prendo in pieno io. E oggi è un bel forte, molto molto forte. Ma l'aveva detto, c'era questa perturbazione di passaggio. Vabbè, non problem, non ho paura per le antenne, oramai sono abbassate, quindi non me ne frega niente. Avanti Vanni. Ma non sono vuol dire niente, sono abbassate. Il vento lo prende lo stesso. Sono meno esposto, ma comunque. Ma quest'anno l'amico deve venire, dobbiamo stare attaccati a comprare una tenuta meccanica, ma tu, infatti, quando viene mi comprai da solo. Cazzo un po' più a mezzodì, no? Ma dove devi andare? Al Bricomex, c'è la gente che c'è? No, vabbè, ma c'è la persona esposta, la stessa mia, vabbè, che tutto si può. Sì, c'è quello che fa scendere la furia anche a Baroa, e non so se fa a Baroa, ma a lei, non so per come è. Ah, la Caliga? Non è la Caliga. Scusa, tu fai per andare a... Che si paga, che non si arriva, non è possibile, sono le pompe troppe. Camera agricola Sassarese, ti sto dicendo, Calligan, Calligan Sardegna, no Calligan, Calligan Sardegna, lì devi andare, da Francesco Mula. Vabbè, che stanno due tre tutti lì, hanno il ponte, vabbè, la piccola che fa la porta con me. Ah, da Porco e Panzari. Ma non mi ricordo come si chiama, vabbè, comunque lì. Sì, alla Serel devi andare, mia, alla Serel. I titolari sono Stefano Porco e Coso e Panzari, come si chiama l'altro? Non me lo ricordo. Comunque la Serel di Porco e Panzari. E dove portavo le pompe io a riparare, dai? Già ho capito dove devi andare. Fatemi, diciamo che vengono anche le tenuta meccanica per l'apparecchio. Sì, c'è la loro officina e poi c'è il negozio di ricambi, sì. Già è quello lì, non c'è problema. Va bene, avanti Lugarie. Vabbè Claudio, non ha lavorato. Sono andato a ritirare dei fax, a fare dei fax e poi adesso sto aspettando un paio di telefonate, ma per non stare lì, aiuto a me andare a casa. Poi se mi chiamano torno. Tanto non c'ho altro da fare. Non c'ho altro da fare. Capito? Perché ci sono delle cose che sta seguendo mio cognato, io tanto non ci faccio niente. Ho capito, mi ha fatto un acquisto per Luna, una macchinetta, una tosatrice da per animali. Carina, l'ho pagata 50 euro quasi, ti vuole massicce. Mi ha dato la lama di ricambio anche. Adesso vediamo uno di questi giorni, il tempo bello, faccio a lei e a quella di Marina. Poi a 20 euro di Bonatosa al cane. No, io ho preso appuntamento da Monica e l'ho portata a Filippo alla Valle, che fa schifo. Capito? Però mi ha dato appuntamento a fine settimana, è piena, perché adesso prende appuntamenti a due i cani, capito? Non più come prima. È un casino. Vabbè. E poi niente, va bene, ok, avanti Angeli, dai, riprendi. E a tagliare le unghie ci vuole l'attrezzo suo, non glielo fare con la tronchesina perché le fai male. Io lo stesso, io quando lo porto a lavare, le taglia le unghie, insomma, lo controlla tutto. E via da te che lo vuoi lavare, io la cucciolo lo lavavo, ma io ho preso 30 kg e poi non sta fermo. Metterlo dentro la vasca con la bacinella è un casino, non fa, capito? È troppo grande e pesante e mi dice la ganna e quindi lo porto a lavare, 20 euro e se la piglia il culo. Non le fai male poverino, no, io ho visto un attrezzo particolare e pensavo si potevano tagliare con la tronchesina normale, ma le fai male e quindi niente, va bene, avanti Roberto. Che sto lavando io? È un lavoro. Devi asciugarlo, devi farlo. Io lo porto lì a Dog Sitter. Me lo fanno loro, pulito, ordinato. Capito? Pago e me ne vado, ho già giudicato anch'io a girarmi le balle, la vale a lui. Ui, non io più vogliamo. Cava cava. Vai Vannino, quindi vento ce n'è lì a Sosso. Ti credo. Vento. Ecco, sento il tuo. No, ma già è una bella giornata, solo c'è sto vento, non è freddo, è libeccio, però è una rottura di scatto. Sì, lo so, Vanni, se devi fare danno te lo vado a Matessi, anche se le antenne sono abbassate, però io, una volta che ho tolto la 3 elementi, che è quella più grande, la 5 elementi è stabile, più ferma, no? L'altra la sbatteva da una parte all'altra. Anche perché mi aveva rotto il blocco, adesso gliel'ho messo nuovo, come l'ho abbassata e ci arrivavo, gli ho messo il perno nuovo, quindi non si dà bene, manco si muove, quindi sono più tranquillo. Ma prima dicevo che mi aggasino, mai più vita mia, mi avevano bene due pezzi di filo, per l'attività che faccio io. Ce n'è per i porci. A me l'unica cosa che devo fare è quella di tenere. Il resto va bene. Sì, tipo attimo, non ci può essere no. Devo allungare un filo e faccio una guida. No, quella ci mette è attaccata la mia. Ma no, non c'è ricezione, boh. Adesso non so se si è rotto qualche occhiello, solo che in alto non lo vedo. Deve aver rotto l'occhiello di aggancio al cavo, sicuramente. Non lo so, devo vedere. Lì non ci arrivo, io non mi appendo, non me la fottino. Quando è tempo bello, se ti vuoi avvicinare, vediamo lo sguardo. E te ne da fare, cosa vuoi ti dica? Io non ci salgo lì perché non ci arrivo, capito? La tre elementi ci sono arrivato, l'ho smontata da solo. La rasura. Quella è troppo in alto. Bisogna stare attenti. Magari una bella giornata, ci sentiamo, vieni e te la controlli. Tanto è già segnata. Capito? Quindi. E poi c'ho il manuale suo, quindi c'ho il manuale delle antenne. Vabbè, poi già ci mettiamo d'accordo, non ti preoccupare. Adesso che passa di cavo fare anche un gasino. No. Non è grave, dai, quando sarà. Guarda, non orari, è nel telefono. Oh, che cosa aspetta? Cazzo, sono le 11:20, allora era andato a mezzodì è tardi, e allora magari hai capito, chiama Marco, te lo fai prestare, lo provi e vedrai che sei soddisfatto. Se non sei soddisfatto vai su un'altra radio, come ti ha detto Massimiliano. Beh, certo che sì, già ti mando un messaggio, ma se no presta. Poi mi ha dato una foto, questo qua è uno che si è innamorato di lui, della Linco. Quellino è, c'è un frequenzimetro blu, e il numero, cioè, cosa dei canali verde, quellino è. Si manda un messaggio di cosa me lo presta. Sono adesso qua a piedi, ragazzi, dove vai la macchina, c'è la marina, sono a piedi, ma ok, vai, una di queste giornate belle, mi faccio un salto in moto. Ehi Angeli, ah sei vicino, l'ho preso anch'io stamattina la moto, tu. Ma lo giardino a futti, già non c'è nessuno. Sei vicino, ti avvicini, moto, farlo andare quel motorino peccato. A fare le commissioni così vicino, Lu, vicino, già mi hai capito, vicino già va bene. E allora Robin Hood che si dice? Roberto non c'è, stamattina ho riparato tra stamattina e ieri, un tablet, quello che stava andando a Roberto, un Samsung Galaxy Tab A6, che non accendeva, poi l'ho tutto resettato, c'è un buon boe, l'ho consegnato, è perfetto, velocissimo, è un talento, mamma mia, ha letto che la gioca. No, il mio già l'hai controllato, già va bene, dai, non è al top, non è molto veloce perché io ho poca linea, però già l'hai visto che già sta funzionando bene. E mette la linea qua, no, non fai niente. Aspetta una riparte al campionato, Lu, per una riparte al campionato metto la fibra, se no toccava pagare, io internet lo uso poco, capito? Perché l'aria ce l'ha sul telefonino, mia moglie lo stesso, io lo stesso, però metto la fibra e riaggancio, perché ho fatto non la disdetta, la sospensione di Sky, capito? Proprio perché non c'è calcio, non me la fotti nulla. Appena riparte il calcio, anziché usarlo come lo stavo usando, lo smart TV e faccio agganciare la fibra. Adesso vediamo, a giugno, non so, giugno, luglio, quando riparte il campionato. Ho capito. Adesso sto aspettando, mi hanno mandato già il modem, ma mesi fa, per la fibra. Solo che poi è successo questo casino per quanto riguarda il virus e niente, sto aspettando che si cambi un po', devo venire a piazzarmi tutto, dovrei pagare di meno comunque, adesso pago quasi 40 al mese. No Lu, io pago molto meno. Ho sganciato, già va bene, intanto già sentiamo lo stesso. No, io pago molto meno, no. Mi pare sia 29,90, boh, una trentina di euro pago, dai. Una trentina di euro, va bene. Avanti, vabbè, ci sei. Va bene, va bene. Avanti, Vanni. Ce l'ho sempre da sempre, Bottisca lì 6 anni, 7 anni. Poi l'ho passato a Wind, adesso è Wind 3 e sto aspettando appunto per la fibra, capito? Ma già l'aggancio. No, vabbè, sono sia appassionato di calcio. A me piace il calcio e lo guardo. Ma dico, no, non è che ando manco, va bene così, giusto per avere. Per avere il calcio, a me ha fatto la mia. Quindi, anche per mia figlia, ma anche per niente, guardo solo partite importanti. Io infatti, anche perché guardo anch'io le partite importanti, noi stiamo sempre vedendo il calcio, anche noi, film, documentari, balle varie, c'è un sacco di roba. Devo agganciarlo perché adesso è sganciato, se no toccava a pagare, a regalare di Naedi senza avere nessun servizio, capito? Vediamo un po' se è rientrato Angelino e dopo io mi stacco un attimo. Mi stacco dalla radio, devo andare a Fusano a prendere questi fusibili, dai, quindi vi saluto. Vi saluto già, ci sentiamo dopo, ok? Angeli, dai, ci aggiorniamo telefonicamente. Ciao a Luca, Roberto, Vannino e chiunque fosse in ascolto, dai, a dopo che esco perché poi serve la macchina mia moglie. Ciao a tutti, a dopo. Ciao ragazzi. Quello matto mi sa già a Marco, sarà addormentato, appena si sveglia. Insomma, lo fa bene, lo fa parecchio. Poi lo provo. Perché buttarci soldi così, magari poi no. Cioè, alla fine sono 202 euro, non sono che cioccolati. Via. Guarda, dico 6.900 per quello digitale. C'ha molte funzioni. C'ha tipo l'ecco. Vabbè, non è che sia importante, però è bella un apparecchio, è forte, esce bene, ti può adattare un MB+4, vuole dato una regolazione, dai, con lo scelto potente. Qua c'è il chilo che ce l'ha, esce benissimo. Non so se l'hai visto, guarda su YouTube, va, su eBay. SS 6009 CRT e il V6. Aspetta. Guarda, te l'ho mandato. Sì, no, nuova al negozio, va. Poi secondo dove vai costa di più anche, eh. Ma io? Sì, tante cose c'ha. Dimmi. Sì, se, guarda, è completa, c'ha tante funzioni. Praticamente la modulazione diventa dentro tramite il tasto, là, nel menu regolazione, qua, puoi cambiare tutto il beep, è bellina come radio, è bellina, qui è, sono attivata, se non mi ricordo, e ha voglia. Sì? Chi? Non so che non lo so, Angelini, non lo so. Ah, sì, sì, c'è sempre grassi. Quello che vende anche roba di baracchini, cosa elettronica, così. Quello lì è. Può andare su internet e cercare il numero se c'è. Perché io non è vero ad Alghero roba di elettronica. Ho capito. E vabbè, qua lo stesso, non è che ci sia questa grande cosa. Sì. Adesso vediamo, sono lì il cavo, sai come c'è anche lì. Non c'è soldi nella carta, non vorrei che me ne rubassero. Diciamo che ne avevo fregati qualche anno fa. Adesso mi ricordo se erano 140 o 160 euro. Sì, dimmi. Non ho capito, prova! Fusano è in via 4 novembre, praticamente al centro, a Sassari. E non proprio, comunque dai, non è molto distante dal tribunale. Ma attraversa di via Napoli, ma di via Redante, scusa. L'hai venduto il tablet poi? Ho detto, il tablet l'hai venduto? Che televisore è, scusa? Lo stai dando 25? Ah, ho capito, io sto vendendo uno Panasonic tenuto bene al plasma, è fiammante, proprio nuovo, 150, no, nuovo veramente, tenuto benissimo, funziona alla grande, solo che mi chiedono, cioè se io non lo scrivo, se non l'avrei scritto se era uno smart, no? Ma non è uno smart, la gente è convinta che magari, a parte uno smart a quel prezzo non lo trovi a 150 euro. Mi sa che lo levo, perché poi ti assillano, ti rompono le palle, perché scrivono, dicendo come mai non stai vendendo, sai, tutte queste domande. Comunque, per quanto riguarda il Samsung Tab A6, ne ho riparato uno tra ieri e oggi, da, diciamo più ieri che oggi, non accendeva, ma abbastanza nuovo, qualche graffettino sul vetro, morto, tu andavi a inserire il caricabatteria e lampeggiava, no? E ho trovato il metodo come sistemarlo. L'ho tutto resettato, consigliato stamattina, di una signora era. E niente, però è un 16 giga, è poco, non so se il tuo è 32, boh. Sì, 10 pollici ok, ma di memoria interna dico, dai. Questo che ho sistemato io è un 16 giga. Sì. E vabbè, questi tablet lui, lascia il tempo che trovano, se non c'è una buona memoria. Guarda, io ho, come ho detto l'altra volta, un S10, 128 giga, però mi è poco, dai, voglio prendere un telefono almeno da 2,56. E io, come radio, non c'ho nulla. C'ho solo un Mobicom che ha 200 canali, poi c'ha la potenza... si può regolare dal tastino, mi sa che fa 2 watt, 10 watt. Comunque ti piace Angelio la radio? E boh, adesso vediamo, dai. C'è Marcolino Condor, se me la presta, la provo, vediamo un po' cosa dice. Se va bene, la voglio vedere accesa, vedere un po', sai, senza metterci troppo le mani addosso, perché non essendo la mia, quando è roba mia posso fare quello che voglio. E sto così, provare a vedere un po', agganciare questa MB+4 e vedere un po' la, insomma, in ricezione, se riceve bene, ha un buon audio, insomma, tutte queste cose. Sì, beh, certo. Ma c'era anche il tiro, capito? C'era il tiro muscolo anche. Ho detto che esce bene. Aspetta un attimino che mi sta uscendo. Prima ho toccato una buca, cioè nel dietro del collo. C'è la crosticina, me la sono levata, mi sta uscendo il sangue, aspetta. Chiara gara. Sto facendo cose, eh. Sempre in vendita, ma però. Sì, sto rimettendo tutti i vintage, sto provando i vintage e li sto rimettendo a posto, va. Che bella. Figlia. Andà bene, andà bene. Io. Ehi, a to. Ciao, bene, ma ascolti. Sì, ti ascolto bene, alla grande. Non ce l'ho fatta scendere stamattina, tu. Mi sono senza macchina. Auricolare. Ho capito. C'è un microfono auricolare questo. Va bene, alla grande stai andando. Ho detto, non ce l'ho fatta scendere stamattina. Capito, che sono senza macchina. Sì, va bene, quando vieni, stasera. No, domani mattina sicuramente. Ci sentiamo domani mattina. Sì, dai, io stato per provarlo a vedere. Sì, già stai andando bene. Già ti chiamo, to. Sì, già sono qua. Anzi, adesso esco per prendere ciò che te ha al cane sulla strada Alghero. Ci sentiamo domani, ok? O più tardi, se è caso. Sì, ciao Claudio. Ehi, a to. Già, guarda, passaccia la fama, la capa, Olimpico positivo, wow, complimenti, esercizi. Picchio ce n'è? Spinge, spinge, pompa, pompa, bella radio, complimenti. Adesso fammi sentire la cassetta. La cassetta. Spinge, spinge. E allora, come stamattina in radio? Vabbè Fabio, ma buongiorno. Vento c'è, corrudo in giro bisogna, quindi è uno che viene prende la portante, che sei più corrudo, vabbè, corrudo, oddio. Ma non ho capito che radio devi prendere veramente. Che devi provare, eccetera. Oh, che bello il mio innesco, ma che mi piace quando me lo sento da dietro che sta arrivato. Allora, l'SS6009CRTV6 della Superstar. Ma è come tipo un 2009 old style con frequentina però. Sì, digitale, sì. E poi c'è l'altro stesso, se non mi ricordo, 5555, poi c'è. Ce ne sono tanti modelli che sono uguali però cambia nome. Non so, perché la scheda è sempre quella più o meno, poi c'è chi sa di una cosa, in teoria un'altra, però la main è quella, capito? L'EPT eccetera. Per esempio questo è un EPT 6. La tua opera analogico? Totalmente, completamente, assolutamente analogico, il mio caro vecchio baracchino, costruito da tre baracchini di vetri e ora si chiama Tornado 34S. Ah, ho capito. Sì, bello. A me piace il 4005. Solo che trovarlo sarà un'impresa. Nuovo, cioè, messo bene. Sarà un'impresa. Non lo trovi, Se ti piace quello non è perdere altri. Aspetta, poi la fine viene fuori per i figli. Ah, sono buono, sto puntando su... Ho 3009. Il 3009 è quello analogico. Oppure il 6009 digitale. Guarda, il 2009 come questo, però tutto qua, con la modifica KPLL e tutto quanto, 120 canali, vabbè, più quegli altri, più tutte le puntare che si sposti col Vine, per il P10 e c'è pure i canali Alfa. Invece il 3009 271 con gli Alfa e poi vabbè, c'è la versione con frequentimetro. Ma non è che per caso ti avanza un qualche smitter di quel, cioè a me serve uno smitter per l'altro Typhoon, che sono uguali ai 3009, se ce l'avevi mai qualche malacchino vecchio. Guarda, ti stavo per dire, quello che ho fatto ieri, l'ho preso questo qua, l'ho smontato, ho preso tutti quanti, tutte quante le cazzate che c'erano adesso, perché c'erano la studio, questo baracchino, io ero affezionatissimo, però poi tra una cosa e l'altra lo volevo mollare, perché mi dovevo trasferire, avevo già visto che dove stavo andando non c'era nessuno in radio, c'è solo la telefonata di Lino, eccetera. E poco prima di partire un amico mi aveva detto, dai, perché non me lo dai il tuo baracchino, ascolto, 200.000 lire, questo parecchio era famoso, era famoso in radio, si sentivo benissimo, non prendevo colpi, l'avevano visto più di un paio di persone, me l'hanno tentato, volevano comprare, ma questo è il mio comune, ci provare a cercare così, no? E tira e molla, insomma, gli avevo dato per due lire. Dopo un mese mi chiama Gianni che era rotto. Beh, l'ho aspetto, controllato, al volo, così, non avevo cavato piede, avevo mollato lì, è rimasto affettato. Il mese scorso ci ho messo a mano, gli ho cambiato due trattizio, è andato, però era ancora un po' polifrequenza, senza smitter, col display che c'aveva i trattini rotti. E ieri sera l'ho smontato, gli ho cambiato lo smitter, che non era fatto anello, e anche il display. Perciò di smitter non lo so, se era un anello, se c'era qualcuno. Ma qual è quello che inizia al verde e finisce arancio nello smitter? Dove c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh? C'è scritto SIN e poi c'è più 30, poi giù di B arancione. Esatto, era tutto quello, lui mi ha dato un altro di un... una tagliette Springfield, che è praticamente quello lì. Però ha il vetrino dentro diverso, perché questo qua c'è anche il rosmetro, perciò sopra da figlio e comune una banda per la tutta verde e poi guardo SVR123, capito? Dunque gli ho dovuto cambiare la plastichina, non era illuminato, doveva cavare la lampadina, c'è niente al suo, gli ho messo un letto, insomma, un travaglio uguale un smitter. No, pare che l'ho visto su internet che a 30 euro costa, c'è uno Schmidt a 30 euro, nuovo, No, l'ho visto anch'io, però l'ho trovato anche a 9 euro, su da qua, su da là, tutti quanti, noi abbiamo 7 milioni, noi abbiamo qua, noi abbiamo là, poi lo vai a prendere, non disponibile. E dove l'hai trovato a 9 euro? L'ho trovato su Radio Chat, se non sbaglio, lì stavo frugando, l'ho frugando lì anche altro, ma su Radio Chat. Radio Chuck? Chat, S-H-A-R-K. Sì, ma poi lo sono andato a prendere per $10, $9 qualcosa, qua e là la spedizione era un paio di dollari e basta. E vado lì a pagare, però non c'è inutile che cerchi, è inutile, una ventina di euro, una trentina di euro. Ma lascia stare, non comprare niente. Aio Clark, ho rimesso a posto questo apparecchio, saldature e tutto, adesso devo rifare i condensatori. Beh, come sta uscendo? No, sta uscendo bene. Ottimo per la truppa. Io mi stavo mettendo a posto un po' di cassetti qua, se no esce un casino. Va bene, va bene. Tu hai fatto per l'appunto ultimamente, ho seguito tutto. Quell'acquisto di che cosa? Apparecchio, 40 canali, 40 anni, acquasti, minchia, un treno. Non è questo che sto parlando adesso. Sempre questo, se senti il vento, c'è cioè tutto acceso per fare scaldare. Questo e questo già va bene, fare due chiacchiere a voglia, ma poi io ne ho altri vintage, quindi no, non ci sono problemi. Non ho dubbi che vadano bene le radio con me, poi soprattutto i microfoni che ho sono tutti microfoni buoni, quindi... Sì, questo è un Polmar 7000, base, vintage, stavo cambiando la lampadina dell'orologio che era spento, adesso si illumina anche l'orologio, è bello, nuovo nuovo. Perché non va bene di radio? Ma io ti volevo dire, già da quando? Dice quanto dice di terra accesa? Non c'è nessuno. Io ti ho sentito sempre la pubblica, ti ho sentito col microfono dinamico. E guarda che non è male la modulazione pure col microfono dinamico, eh. Ha un buon livello e c'ha anche pettoni abbastanza buoni, cioè certo, con questo è un'altra cosa magari, però anche con il microfono dinamico. La radio è bella, sì, perché sono quezzati, quindi vanno bene. E ma no Fabio, non ci riesco io a usare il microfono da palmo, sono abituato con quelle da tavolo, ce li ho tutti, ce l'ho più 4, più 5, più 3, l'SBE, lo Shure, poi un altro tipo Adonis, sempre per la 27, Boxing, dai, quelli lì. E poi c'è tutta la serie Icom, Iaeso e Kenwood, ce li ho tutti i microfoni. Non mi piace stare con il microfono in mano, dai, capito? No, questo va veramente bene, c'è una ricezione favolosa e poi mi serviva, perché c'ho il DAC che è un bel grande, mi prende un bel posto, invece questo è messo a un angolo e funziona un bel bene. Io non sto mercato tutti i tre canali, sto a quattro, che poi non ho capito dove sono finiti i quattro, dovrò frugare, l'ho trovato l'altro giorno, bellino, veicolare, piccolo compatto. Il dubbio è che c'è il dubbio, la seccatura è solo 23 canali, perché per il resto mi ricordo il periodo che c'avevo il Saturn, me lo dovevo mettere sopra al Saturn per ascoltare qualcuno, perché non prendevo un colpo ma neanche da lontano, giusto? No, questo già va bene, sì, alla grande, oh yeah, sono tenuto a posto qua. Era un casino, veramente. Adesso ho messo tutto in ordine, tutte le cose almeno le trovo, perché c'è un sacco di cassetti, un sacco di cavi, cavetti, cavettini che alla fine poi non li trovi ed è, vai a cercarli quando ti servono, no, e non li trovi. Va bene, avanti tu. Fate come si dice, ho due patch, quelli vecchi a 23 canali, però uno accende però non trasmette, non riceve, perché un giorno lo stavo provando, ma un giorno, 20 anni fa, mi è caduto in terra, ha smesso di funzionare. E vabbè, ma è qualche coglionata. Vabbè, due tecla. Il trasformatore che è pesante, quando per le cose i trasformatori hanno peso e magari tendono a staccare il piedino, cazzato. Comunque l'avevo andata a farmelo controllare anche a Luigi, questo tecnico di Caglia, dice che non si poteva riparare. Chi è avanti sta parlando? È Gersino. Io pensavo che vi lascio. Io vado a fare la mia sicurezza nella macchina, che mi conviene. Forse è meglio. Perché mi sa che stai a mezzanotte. Vai Fabi, vai a fare le cose che devi fare, la radio già viene dopo. No, io ho fatto già tutto, va bene. Ci sentiamo dopo, buon giro, saluto che ci farà le autotoni anche. Ciao Fabi, a dopo, ciao. Ciao Fabi, quindi confermi e puntello che questa radio ti piace, va bene, dai. Alla grande, cra. Faccio un chiamato messaggio a Marco, vediamo un po', se me lo presta, a provarlo un paio di giorni, due giorni così, vediamo un po', cosa ne esce, se mi garba, faccio due clic. Sì, ma infatti, tranquillo. Stavo facendo andare lo scanner del VHF. Stai trasmettendo a 145. E poco entro io in VHF. Io marito sui ponti, capito? Oppure faccio due chiacchiere in HF. Poco ci sto nella diretta, dai. No, ho capito. Intanto sentivo varie Marco, Walter, così. Un vicino, là, Salvatore. Ehi, va bello, fanno due chiacchiere ogni tanto anche loro. No, ma io non sto trafficando molto. Aspetta un attimo. No. Hola, Sico, vamos a ver se va scusando la Italia. Hola, hola chico, vamos a ver si va escuchando la Italia que va llamando delante. Frequenzimetro blu e il display dei canali verde. Ah, Linco, mappa 27. Ah, sì. Una vita, guarda. Non lo conosco. Negativo. Quando vanno a cortare l'acqua? A mia moglie ha arrivato oggi. Vanno a cortare l'acqua perché hay una veria. Io sono qui, la di Rio Verde, che è dove va a stare il lì. Sì, guarda, Ocla. Guardalo. Com'è la marca Linco? No, ho mandato su WhatsApp, controlla. Adesso controllo, vedete. Hola, adelante, hola, Sicco, vamos a ver se va scusando la Italia che va chiamando. Adelante, ho comprendido, por favor. Ah, sì. Già è bello. Mamma, i baracchini non mi piacciono più. Mi piacciono, anche se sono vecchi, ma mi piacciono in base. No, mi piacciono i baracchini a me. Ne ho tre dentro l'armadio. 1000 airbag sono di nuovo tolto e ho agganciato questo. 220, tanto baricare che servi, capito? Già va bene. No, vabbè, tu c'è lo spazio per farlo, io lo spazio non ne ho. Sono belli in base, sì, ma ci vuole spazio, un bel spazio. Ci vuole un bel spazio. L'avrei anche fatto, un ripiano, so che non c'ho spazio, qua sono un po' legato, eh. No, già lo sai dove sono io. Di un'abbondanza spazio. Lo so. Tu hai diciamo una stanza tutta per le radio. Invece io qua ci dormo anche, capito? Vabbè, non è quello il discorso, però non ho spazio qua. Non ho spazio. Lo so, anch'io quando ero a nono piano avevo fatto un angolino, una risega nel muro con dei piani, mi avevo messo le radio lì. Questa è la mia stanza, proprio non entra nessuno, assolutamente, mi ha adesso chiuso la porta e quindi niente, questa è proprio la mia sala radio, fatta la sala radio proprio, cavi, prese, tutto fatto in ordine. C'è anche la TV, computer, tutto qua dentro. Io entro qua e metto qui no, che non mi sei venuta. Ah, beh, certo che sì. Boh, adesso vediamo. Vidi muso cosa fare. Io ho fatto un ripiano per mettermi la striscia saldante, solo che no, devo fare una cosa fatta bene, una fatta cosa veloce, così. Ho messo tre staffe, con tre, sì, nove tasselli, solo che in un muro leghi su ghiecla, tutto farinoso. Ma... No, qua c'è le basi fatte, progettate, costruite, montate qua a casa, è venuto Giulio, ha fatto tutto Giulio, io gli ho dato la stanza vuota, ho detto voglio una L, così da Gantu, da farla da 2 metri una e l'altra da 1,50, e larghezza da 90, e ti dico che ci sta tutto, ripiano a solo sollevato, tutto in noce massello, ci puoi camminare sopra, i piedi sono in alluminio, belli, che si possono anche reclinare, la base a cerniere si può abbassare, togli le radio e la abbassi, è un bel lavoro ha fatto Giulio qua, io gli ho dato la stanza da vuota, ha detto cosa fai? Fai tu, progetta tu e fai tu, ha progettato lui qua, è uscito un bellissimo